detto fai tu, dice ragazzi tu lavori, mi da qua a qua, e qua mettiamo la L. Fai tu, ha fatto tutto lui, mi ha rivisto un motocarro, ha piazzato tutto, è venuto un bel lavoro. Veramente un bel lavoro. È legno, legno al vero, legno al vero. Anche quella base di sopra, quella me l'avevi fatta quando ero via Pascoli. Se non mi ricordo che legno è quello, ma se ci puoi passare sopra, mai si è imbarcato, se c'è il legno pieno, no giù? Sì, quello è flaccido mordentato, perché il flaccido è un legno bianco, proprio bianco bianco, e poi l'ho colorato io con mordente, con l'impregnante color ciliegio, e poi naturalmente sopra verniciato, è ovvio. Sì, sì, sì, è così. Mentre i piani sotto sono noce Daniela, tutta la base sotto, e il ripiano superiore, quello lì è flaccido, mordentato, legno massello, fortissimo, che è pesantissimo oltretutto, perché è un legno molto duro quello. Va bene, dai. Beh ragazzi, io vi lascio, che devo andare a caricarmi il telefonino qui al coso, come si chiama? Al tabacchino vicino a casa, perché di solito l'altro numero me lo carico direttamente online, però siccome io ho questo che devo caricare oggi è Poste Mobile, e Poste Mobile non c'è sul computer, diciamo, e dunque sono costretto ad andare al tabacchino. Vado adesso, spendo 30 euro perché io ce l'ho trimestrale, no? Ho l'abbonamento ogni 3 mesi, per cui vado prima che del pranzo, perché è già l'1:20 qua, perciò vi saluto, vi ringrazio per il QSO, ci sentiamo stasera, ciao Massimiliano, ciao Gabino, ciao Claudio, grazie a tutti e tre per il QSO, alle prossime, ascolto il finale e poi mi faccio una scappatina al tabacchino, ok? Vai Massimiliano, ecco. Ok, vai, sei registrato il becco, ciao Giulio, allora buon proseguo, buon pranzo e ci sentiamo stasera, dai, vai Gabi. Eia, eia, ciao Giulio, e anch'io fra poco adesso chiudo tutto e ci sentiamo tutta più stasera, dai. Un saluto a tutti anche da parte mia. Claudio, Massimiliano e Giulio di nuovo, dai. Va bene, allora ciao a Giulio, buon pranzo, buon tutto, ci si aggiorna stasera. Registrato il break, avanti. Ciao Ricca, buongiorno, ben ascoltato. Sì, lì in quella casetta ti puoi fare una bellissima sala radio, ti metti le radio tutte belle in fila, con i microfoni, gli alimentatori, tutto ordinato, come abbiamo un po' tutti, senza mettere le radio uno sopra l'altra, le radio uno sopra l'altra non si mettono, ci vogliono delle, per sopraelevare, delle basi sopraelevate, una radio sotto, con lo spazio per pulire, entri la mano e poi l'altra sopra, se no una sopra l'altra non va bene, che scaldano, poi ti si attaccano i piedini, fanno i segni, eccetera eccetera. Vai Massimiliano. Sì, vai, saluto Riccardo, organizzati dentro casa in un angolino, Riccardi, ti fai comprare un mobile con i ripiani, una scrivania, ripiani, e te la metti dentro casa la stazione, non nel garage, e così sei più tranquillo, va. Vai Gavi. Ma lui non penso sia in garage, boh, dove sia in garage? L'antenna la puoi lasciare lì, ti compri un po' di cavo in più e arrivi a casa. Ma perché? Quanto è lontana dal garage la casa? Quanto è lontana? E cosa vuoi che sia? Ti compri un cavo buono, prendi un 213, una Camille, ci sono i cavi buoni. 50 metri cosa vuol dire sia? Perché Gavino non c'ha 50 metri a casa sua, eppure disperde poco. fatti comprare una matassa di cavolo a tuo padre, anche 50, 60 metri, quelli che ci vogliono, non succede niente. Non è molta questa perdita, capito? E l'antenna la puoi anche spostare volendo un pochino più vicino, se trovi un altro punto. E così ce l'hai dentro casa e non stai lì in garage al freddo, d'estate magari è già bello perché stai all'aperto, però le radio si rovinano, alluminano, al caldo, capito? Dentro casa è un'altra cosa, una sedia, una scrivania, due tavoli, un microfono amplificato e si è a posto, vero Claudia? Certo che sì. Anch'io avevo la possibilità di avere 8 metri in cavo, 10 metri in cavo, bastava che facevo la sala radio su mansarda, però ti isoli, no, va bene. Allora l'ho messa qua, nell'altra stanza, questa stanzetta che ho, capito? Come ti ha detto Massimiliano, ti compri un cavo buono, anche il 213, un H1000 che a me non perdita ancora, non fa niente. Ti porti le radio dentro casa, ti metti una scrivania col computerino, tutte le radio, tutte le cose, stai dentro casa, perché ho visto poi quando piove, quando c'è tempo brutto, hai paura e te ne vai dentro casa, lo so, non fa, se riesci a fare un bel lavoro dentro, diglielo a Sergio di organizzarti e te ne stai dentro casa, ricca, capito? Gavino, già chiuso hai? Se Gavino è già serrato, riprendi ricca. Se no prenderò freddo. E magari lì ci può essere umidità, non le fa bene, capito? Le radio vogliono il calduccio, qua c'hanno la stanza con riscaldamento, quando c'è caldo apro la finestra, sono arieggiate, capito? Un'altra cosa. Vai Massimiliano. Sì, lì sai cosa fai lì Ricca? Ti lasci quella Grand Prix piazzata lì nel garage, ti lasci un malacchinetto così, capito? Un alimentatorino, giusto per fare due chiacchiere, e ti metti quella Grand Prix, te la lasci lì, agganciata lì. Ed estate quando sei fuori, cosa lui piace anche, ti rimane lì e puoi parlare da lì. Ma d'inverno e o la notte ti attacchi l'antenna che ti arriverà, te l'attacchi un pochino più vicino alla casa se hai la possibilità, ti compri un buon cavo e te lo metti dentro casa, fai un buchettino e te lo porti in camera tua con la tua scrivania, le tue cose, le tue radio, le tue... quando non hai più voglia spegni e ti corri che c'è il letto vicino, capito? E lì lasci una radiolina così da battaglia, diciamo, nel garage. Similiano Bulldozer, ascolti Catramina qua in transito, carrettiera nord-est, direzione Ruschi, cambio. Beh, Luciano, stanno parlando. Ti conviene. Ciao Catrami, buongiorno, ben ascoltato. Buongiorno, boh, ti ho sentito molto male perché l'altro non lo sentivo e mi sono introfuato, chiedo scusa. Ma andando ci stiamo, dai, andando in direzione Uschi a buttare oro nero. Buono, dai. C'è Riccardino, forse non l'hai sentito lì da zona di Monte Alto, là diciamo. E poi c'è Claudio quello Sparviero, che te lo rilancio, vai Claudio. Infatti ho detto aspetta un attimo, non c'è che ha solo modulato a Riccardo. Ma la chiamando Oschi, non c'è. Abbiamo ricaricato, ha fatto la sosta, mangiato qualcosina e allora ridurremo, piano piano, drucche drucche, stava facendo, ci prendiamo un caffettino e via. Dormiglio un caffè da Brisci. Caparroce, no? O lì oppure da al 597. Vabbè. Una bomba sì, 9:20 stai arrivando radio il pacadutto. Molto forte. Riccardo, lo senti a Luciano Catramina? Sì, lo sento. pesante, perché lui è con la barra pesante, capito, in movimento, quindi è per quello che non ti sente. Se era magari stazione fissa già ti sentivo. Vai Massimiliano. Va bene, dai, io adesso me ne vado a pappare un po' di roba in bianco, e così lo so, ma così li metto un po' a posto, va. Vi saluto, ciao Lucia, piacere mi ha fatto, appena mi rientra il mio 36 mi rimetto tutto anche io, già ti vedo tutti i giorni passando, io sono lì vicino a Meserio lavorando, va. Però radio non ce l'è, quindi niente. Va bene, ciao, buon caffettino. Allora Lucia, ci sentiamo. Ciao Claudio, ciao Riccardo, io me ne passo a mangiare, va. Ciao a tutti, a dopo. Ciao Massi, ciao, alla prossima, buon pranzo. Ciao Massimiliano, sì, anch'io stacco, dai, non mi raccolto l'una meno 10 e vado a mangiare il cane. Ciao Lucia, un abbraccio grande e fatti sentire quando sei di passaggio. Ciao Riccardi, saluta mio babbo, ci sentiamo stasera, ciao a tutti. Ehi, dai, a più tardi al rientro, buon pranzo, ciao Riccardo. Ok, ciao a tutti, buon pranzo stasera, ciao ciao. Aspetta che te lo chiamo io, Ricca. Attento Sud Italia, se ascolti la Sardegna, la città di Sassari che ti collega, avanti. Ok Claudio, salutoni, ben ascoltato, anch'io ti ascolto molto bene. Sono Giulio da Sassari, Giulio Dollaro da Sassari. La mia antenna è un'autocostruita tipo Game Master, praticamente canna da pesca, per cui vedo che funziona molto bene e anche in ascolto. Io ti manderei avanti un ragazzo qua molto giovane della mia stessa città, però probabilmente non riesce ad ascoltarlo. Vediamo un po', facciamo un tentativo, Claudio, perché il ragazzo ha un'antenna poco performante, vediamo se la propagazione riesce ad aiutarlo. Avanti Riccardino per Claudio del Sud Italia. Ok, grazie Giulio, grazie per tutti, Claudio. Forse non ti ha ascoltato, eh? Attento Claudio, hai ascoltato Riccardo, un ragazzo di 14 anni da Sassari? Claudio, mi sei sparito? Oh Giulio, Luciano qua, di nuovo sulla carrettiera. Ciao Lucia, sì, sono in collegamento con tu Claudio dalla Sud Italia, scusa un attimo Lucia. Avanti Claudio, mi stai ascoltando? Ok Claudio, dai, ti saluto, c'è stata una involontaria sovramodulazione qui nella zona, nella mia zona, dalla parte ultima del tuo passaggio non l'ho potuto ascoltare. Ok, grazie ancora comunque per il collegamento, ciao Claudio, salutoni, anche da parte di Riccardo, alle prossime. Avanti Lucia. Io non sentivo questo Claudio, non lo sentivo per niente, forse c'è un po' di QRM, ma e tra l'altro non sento neanche Riccardino. Ok Riccardo, grazie da parte di Claudio del Sud Italia e anche da parte di Luciano, perché lui non ti ascolta. Luciano, non ho ripreso subito perché c'era Riccardino che ha ripreso e stava modulando lui. Sì, ha un antennino praticamente, ancora non è in condizioni di farsi sentire un po' dappertutto, oh, Riccardo, un ragazzo alle prime armi, perciò tra un po' si attrezza, anzi diciamo che ci ha già pensato a ordinare l'antenna performante e poi dopodiché sarà in condizioni migliori. Avanti ancora Luciano. Luciano non riprende, forse ci sono il blu. Ehi Giulio, dai, è qua un po' sulla negativa, mi dice sì la carica qua, però c'è un sacco di QRM. Ok Luciano, ho capito, sei in zona negativa. Va bene, ci salutiamo, dai, andiamo a pranzare. Ciao Luciano, salutoni, alle prossime. Ciao Riccardo, c'è ancora l'ascolto. Chiudo. Ciao Giulio. Kappa Rogero, ciao Giulio, vai, buon pranzo, casomai a più tardi. Ciao Riccardo, se mi ascolti. Ok, ciao Riccardo, a stasera, ciao.